Ingrid. Era seduta al tavolo della cucina a guardare l'onda del Me Too che travolgeva la Svezia, anzi il mondo intero, a partire dagli Stati Uniti. La sua pagina Facebook era piena di donne che si ribellavano, che alzavano la voce e raccontavano. Di stupri, molestie sessuali, tecniche di prevaricazione. Tutte avevano qualcosa da raccontare. Tutte. Era ipnotico. Ingrid non riusciva a smettere di leggere. Ripensò alla sua vita, all'adolescenza a Västerås, dove non si era mai stupita di sentirsi dare della troia se rifiutava le avance di qualcuno al pub. Alle notti in cui si era ubriacata a qualche festa e si era risvegliata senza mutandine e con ricordi frammentari di mani che la tastavano. Erano molestie, certo, e non era finita lì. I primi anni all'Afton Pressen, le colleghe donne che l'avvisavano di non restare sola con certi giornalisti e fotografi. I colleghi maschi che ridevano e cercavano di minimizzare quando qualcuno beveva troppo a una festa e si metteva a pizzicare sederi, seni e fianchi. Il cronista di nera, che quando lei si era presentata, la prima settimana di lavoro, l'aveva squadrata dalla testa ai piedi, e invece di presentarsi a sua volta, aveva osservato «belle labbra da pompino». Fino ad allora, le molestie erano state parte del gioco, ma adesso il gioco era cambiato. Ingrid posò il cellulare e si alzò. Andò nella camera di Lovisa a controllare se dormiva. Mentre le sistemava la coperta, sentì il rumore della macchina di Tommy e poi i suoi passi frettolosi sul vialetto. Chiuse la porta della figlia e tornò al piano di sotto. Suo marito si stava togliendo le scarpe. Quando la vide, scosse la testa. «Giornata di merda, eh? E domani devo essere di nuovo in ufficio presto». Visto che lei non rispondeva, proseguì. «Ho un articolo molto delicato da rivedere. Mi mandano la versione definitiva tra una mezz'ora». Andarono entrambi in cucina, dove Ingrid preparò il caffè mentre Tommy si sedeva. «Oggi sono venute a parlarmi due giovani collaboratrici. Vogliono che licenzi Ola Pettersson e Christian Löwander. Pare che si siano comportati male». «Ma si sapeva già, no?» Aveva pensato di affrontarlo a proposito del tradimento, ma ogni volta che stava per tirare in ballo il discorso, la lingua sembrava paralizzarsi in bocca. Perché era così difficile? Lui fece un sorriso fiacco. «Sì, ma non fanno poi niente di così grave. Sono solo due vecchi marpioni di un'altra epoca. Per loro la parità dei sessi è una novità, senza contare che nessuno dei due è esattamente astemio. Non lo fanno per cattiveria. E poi l'Afton Pressen ha bisogno di loro. Sono giornalisti apprezzati, con un curriculum di tutto rispetto. I lettori si fidano. Löwander è quello che mi ha insegnato il mestiere, cazzo. Non lo posso licenziare». «Quindi cosa hai detto a quelle due donne?» «Ho detto che avrei esaminato la questione e che per il momento dovevano tenere la cosa in famiglia». Ingrid fu invasa dalla rabbia. Due giovani donne erano andate a chiedere aiuto a Tommy nelle sue vesti di capo e lui si era limitato a mettere loro il bavaglio. «Tommy, devi...» «Non devo un cazzo!» scattò lui. «Tu non capisci cos'è meglio per il giornale, per noi». «Ma...» «Sta zitta, ti prego. Non sono dell'umore giusto. Non sai di cosa sto parlando». Ingrid si sentì gelare. Cercò lo sguardo del marito, sperando di trovarvi un po' di affetto o di comprensione. Ma lui non la vedeva nemmeno. Le pareva di essere una ragazzina rimproverata dal preside. Finirono di bere il caffè in silenzio. Poi Tommy si alzò e andò di sopra. Ingrid prese le tazze e le lavò a mano.